GR Europa. Buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. Altre notizie, apriamo di nuovo la nostra finestra sull'Europa. Europa che guarda al suo futuro in questo 9 maggio, festa dell'Unione Europea, cuore delle celebrazioni Firenze, dove si sono ritrovati i presidenti della Commissione Europea e dell'Europarlamento, José Manuel Barroso e Martin Schulz, per l'inaugurazione della nuova sede degli archivi storici dell'Unione Europea e per la conferenza sullo Stato dell'Unione organizzata dall'Istituto Universitario Europeo. Il presidente Barroso dovrebbe iniziare tra pochi minuti il suo intervento. Intanto a tenere banco sono stati questa mattina la crisi ma anche il futuro dell'Unione, con un'Europa che guarda anche ai suoi confini. Il presidente Schulz al microfono di Gigi Donelli. Croazia al 1 luglio, Serbia all'orizzonte. Stiamo parlando già dell'ingresso della Turchia. Non è che stiamo chiedendo troppo ai cittadini europei? Io credo che al momento l'Unione Europea si dovrebbe riformare e dobbiamo risolvere i nostri problemi internamente prima di discutere di allargamento. Insisto sull'allargamento verso i nostri vicini dei Balcani occidentali, che erano membri dell'ex Jugoslavia, come la Serbia o la Macedonia. Presto o tardi arriveranno ad unirsi a noi. Però per adesso abbiamo il dovere di lottare contro la recessione, contro la disoccupazione, e dobbiamo trovare il modo di riacquistare la fiducia dei cittadini europei. Poi, dopo, possiamo discutere di allargamento. La priorità quindi per noi, per il momento, è trovare un equilibrio sociale, un equilibrio economico all'interno dell'Unione Europea. In un messaggio per la giornata dell'Europa, proprio il capo del governo di Ankara, Erdogan, ha affermato che la Turchia fa già parte della famiglia europea ed ha invitato l'Unione Europea a rispettare la visione coraggiosa dei suoi fondatori e dimostrarsi determinato ad accogliere la Turchia nell'Unione quale membro a pieno titolo. Secondo il capo del governo di Ankara, sarebbe nell'interesse sia della Turchia sia dell'Europa riuscire a superare i problemi. E la Banca Mondiale ha iniziato intanto proprio l'esame dei meccanismi che regolano l'unione doganale in vigore dal 1996 tra Unione Europea e Turchia dopo le accuse reciproche di violazione delle intese. L'istituzione di Washington presenterà in autunno un rapporto a Bruxelles e Ankara. Festa dell'Europa che si celebra oggi intanto non solo nel nostro continente. Eventi culturali e seminari sono stati organizzati in tutto il mondo dalle delegazioni, dalla rappresentanza del Parlamento europeo, dal Brasile al Giappone, dal Canada alla Nuova Zelanda, passando anche per la Turchia, la Cina, l'Egitto e l'Arabia Saudita. 2013 che è l'anno europeo dei cittadini, e allora cosa chiedete voi all'Europa? Vi ricordo il nostro sondaggio sul nostro sito www.radio24.it, potete ancora rispondere ai risultati durante l'altra Europa sabato mattina. Ora invece richiudiamo qui la nostra seconda finestra di oggi sull'Europa. Ancora un buon pomeriggio da Anna Migliorati. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.